America, in the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Hey, it's Tiger. Hey, qui Tiger. Fammi un grande favore, cancella il mio nome dal tuo telefonino. Mia moglie ha controllato il mio ed è probabile che ti chiami. È già diventato un rap, anzi una sexy song, anzi una infezione virale della rete, dei media, tutto quello che volete. La triste vicenda di Tiger Woods e delle sue mille corna sparse per l'America in questo dicembre 2009. Ma potrebbe anche sorgere una domanda all'atere di questa di questo evento così trash, ovvero come ci siamo, come diavolo ci siamo arrivati fino a qui, come siamo arrivati a parlarne, perché ancora ce ne siamo resi poco conto, ma sta finendo un decennio, il primo decennio del terzo millennio, e anche su questo qualche ragionamento andrebbe speso, e oggi proviamo a fare qualcosa del genere qui a Buongiorno America, naturalmente interessandoci in particolare di quel universo che parte, no, poi dagli Stati Uniti, ma poi a onde concentriche si diffonde per tutto il pianeta. Noi di solito siamo abituati a occuparci di questo qui, no? Good trend isn't good enough. Trends don't buy groceries. Trends don't pay the rent or college tuition. Dell'uomo che ci spiega che con i trend non si pagano le bollette, che tocca organizzare le cose diversamente, anzi forse per garantire la pace al pianeta tocca fare anche la sua guerra e spendere altri soldi che vanno trovati, non si è capito esattamente dove, ma che i trend comunque non bastano. Noi invece oggi proprio dei trend vogliamo parlare, ovvero di quel universo della cultura popolare al centro del quale, volenti o nolenti, ci muoviamo portando rispetto, per carità, al vertice di Copenaghen, anzi di Copenaghen, come il premier danese Rasmussen lo ha appena ribattezzato, queste due settimane al termine delle quali, oltre a buoni propositi, speriamo ci arrivi qualcosa di più. Ma oggi dedichiamoci, no, in questo giorno un po' strano, in mezzo a un ponte, ecco, in mezzo al guado verso il nuovo decennio, proviamo anche noi a guardare, a guardare indietro a quello che è successo. Vi raccontiamo una micro storia del primo decennio del millennio, così per morsetti, no, sonori, per ricordi, per una America che potrebbe essere raccontata anche così. I personally have problems with it because I was brought up by the television, you know, risalendo all'anno 2000, partendo da questa voce. La voce di una scrittrice che si chiama Zadie Smith, una scrittrice che irrompe nel mondo letterario del nuovo millennio non appena ci stiamo abituando alla nuova realtà, no? Tenete presente, siamo a cavallo fra il 99 e il 2000, non c'è l'iPod, non ci sono gli smartphone, non c'è YouTube, non c'è Facebook, abbiamo appena fatto conoscenza con questo attrezzo che si chiama Google, che ci sembra molto pratico, ma insomma dobbiamo farci una certa pratica. È successa da poco la strage di Columbine e su quella si sta ragionando molto, sui disagi giovanili. Bill Clinton è ancora in carica e 70 milioni di americani hanno guardato l'intervista a Monica Lewinsky. Ricky Martin canta La Vida Loca. Abbiamo avuto paura del Millennium Bug, ma non è successo niente. Il Millennium Bug arriverà 21 mesi più tardi, l'11 settembre del 2001, e lì forse ci sarà veramente, no, il giro di pagina. E ancora ci interessiamo di cose culturali, per esempio la nascita di una ipotesi letteraria multirazziale che mette questa parola multirazza così sulle prime pagine delle cronache culturali, mentre nelle cronache cinematografiche primeggiano le provocazioni di American Psycho, la trascrizione del romanzo di Bret Easton Ellis. gratis nei negozi di tempo libero, no? Si cominciano a comprare le PlayStation 2, se ne venderanno 139 milioni di pezzi, e nell'aria, nelle radio, dai compact disc molto usati ancora all'epoca, suona questo disco. Si chiama Kid A, sono i Radiohead ed è uno dei dischi più saccheggiati da uno strano attrezzo telematico che si chiama Napster, in realtà un programmino che permette di downloadare, di scaricare dei file musicali. Sono ancora tutti nuovi termini per l'epoca, ma di fatto insomma ti freghi la canzone, il disco, e te lo senti gratis. Diventerà poi anche tutto ciò la procedura funebre per l'industria musicale per come la conosciamo. Ma già arriviamo all'anno successivo, ovvero al 2001, l'anno che, come vi abbiamo detto, naturalmente segna nella storia, ma qui stiamo parlando di cultura popolare, un vero cambio di atmosfera. Ma il 2001 può essere ricordato anche per motivi più leggeri. iMac, iBook, iPod. What is iPod? Ecco, questo signore che ha la voce che sembra un computer è Steve Jobs, e sta presentando in questo momento al mondo un strano attrezzetto. Davvero curioso, incuriosisce fin dall'inizio, ma certo, ma la musica, tutta la musica, come potrà mai essere recuperata e messa dentro l'iPod? Sparsa com'è, lui farà in modo e ci spiegherà che tutto ciò è assai possibile. L'iPod è l'oggetto del 2001 e nei cinema si vede un'altra cosa invece. Legend tells of the Dark Lord Sauron. Peter Jackson scarica Lord of the Rings, il Signore degli Anelli, l'inizio della grande saga sullo schermo, no? lo tira fuori, lo estrae dai polverosi scaffali delle nostre librerie e lo trasforma in una grande visione che attira, ipnotizza buona parte della gioventù del pianeta. Naturalmente i grandi temi sono al centro del dibattito in quel momento, tant'è vero che anche la letteratura più leggera, quella cronachistica, quella del decennio tutto sommato felice e disimpegnato degli anni 90, ha delle difficoltà. Non a caso molte difficoltà le sta provando in questo periodo la signora Tina Brown. Well, it began about, you know, a year ago now when Barry Diller came to me and said, look, I think that we're all talking. Grande giornalista americana, autrice del Vanity Fair più seguito e ormai già più mitizzato, tenta una nuova avventura editoriale con Talk, un fiasco terrificante. Poi farà un po' la biografa, si dedicherà a Lady D, proverà a ragionare sulle celebrity, ma non riuscirà a far niente fino a un paio d'anni fa, un annetto e mezzo fa, quando ha lanciato un nuovo sito che invece si chiama Daily Beast, spostando, no, armi e bagagli, il suo sapere, il suo tocco giornalistico sulla rete in chiave digitale, e a quel punto Tina Brown ridiventerà una giornalista di primissimo piano. Anche il mondo del cinema nel 2002 ha una grossa idea nuova che gli esplode all'interno, ovvero l'idea che ai grandi festival, quelli di Venezia, di Cannes, insomma quelli ufficiali, si possa affiancare anche qualcosa di diverso proprio nel cuore dell'impero. As an actor, filmmaker, New Yorker and movie fan, I'm so gratified to be part of the Tribeca Film Festival and I'm pleased we can provide a place for these stories. Questo è Robert De Niro che lancia il Tribeca Film Festival, destinato a diventare nel giro di un annetto e mezzo circa già la seconda edizione, il festival di riferimento per tutti i cinefil che veramente ancora ci credono, insomma, in Anni Moretti e dintorni, ma anche in Muccino, dai, e dintorni di tutto il mondo. Diventa un festival significativo, festeggia la possibilità di un cinema al di fuori delle majors. Nel 2003 nasce MySpace, si capisce che la musica può essere messa in circolazione tra i consumi popolari, tra i consumi pop, anche autonomamente, e c'è un libro che invece dà proprio tutto il senso, no, dell'approccio delle major, delle grandi vendite, dei grandi numeri. Questo. You and I, Robert, we have observed history. Il dice Da Vinci, comincia la irresistibile saga del Codice Da Vinci, che ci trasciniamo ancora oggi. I consumi popolari diventano sempre più globali, sempre più rapidamente. I libri cominciano a uscire, con essi anche i film, praticamente in contemporanea in tutto il mondo. C'è un nuovo personaggio anche che nel 2003 si rivela al mondo, si chiama Paris Hilton, interpreta con quel suo nome così roboante una semplice, stupida ma divertentissima reality show che si chiama The Simple Life. 2004, il Super Bowl, succede qualcosa di strano. Succede che Janet Jackson fa vedere un capezzolo e il mondo si paralizza a fissarlo, un po' ipnotizzato, nel corso del famoso show dell'intervallo. Succede anche che finiscono due grandi serial televisivi e l'America un po' versa la lacrimuccia. Si tratta di Sex and the City, la cui sigla naturalmente sentite in sottofondo, e Friends. 52 milioni e mezzo di spettatori seguono l'episodio finale. New York diventa il nuovo Canada del cinema, il nuovo posto dove si girano i film, perché viene detassato qualsiasi film realizzato in città. Non a caso tutti i film, ci avete fatto caso, da quel momento in poi sono ambientati a New York, ma siamo solo a metà del decennio. Girl, you know we've been together such a long, long time. Such a long time. Now I'm ready to lay it on the line. You know it's Christmas and my heart is open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind. A gift real special, so take off the towel. Take a look inside, it's my in a box. It's in a box. Not gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. You a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star. Not gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart. Something special, girl. It's my in a box. It's easy to do, just follow these steps. One, cut a hole in a box. Put your junk in that box. Make her open the box. That's the way you do it. It's like in a box. Buongiorno America. E stiamo ripercorrendo un decennio, il primo decennio del millennio, per una strada diversa, un po' più piccolina, un po' più laterale, eppure frequentata da noi tutti, la strada dei consumi culturali popolari, quelli ormai diffusi, globalizzati, condivisi da tutti gli abitanti, almeno dell'Occidente contemporaneo. Siamo arrivati al 2005, questa musica che sentite di sottofondo è quella di Brokeback Mountain, il film che in quell'anno apre una mezza dozzina di questioni di costume, ma soprattutto rinnova un genere, lancia un paio di sex symbol come Heath Ledger e Jack Gyllenhaal, conferma la qualità di un regista come Ang Lee e soprattutto trasforma i cowboy in possibili omosessuali, con tutti i risvolti intriganti, divertenti che si possono rilevare. Nello stesso anno, 2005, nascono due oggettini non proprio da scherzare, che si chiamano rispettivamente YouTube e tutto ciò che ne seguirà, e poi il misterioso mercato, forse se si hanno 12-13 anni lo si comprende, se no diventa più difficile, delle suonerie telefoniche, che un bel giorno diventa, per quanto riguarda il mondo della musica, più importante di quello discografico vero e proprio, e chi l'avrebbe mai detto. Siamo al 2006 e arriva un signore stranissimo. Sacha Baron Cohen, questo è il mio paese, e Borat comincia a trionfare nei festival più seriosi del mondo e diventa un'altra questione di culto trasversale. Tenterà di rinnovare nel 2009 l'affare lanciando Bruno, ma non sarà lo stesso successo. Ma Borat è davvero, sembra davvero una risata, no, collettiva, che sta seppellendo per qualche settimana il mondo. C'è anche un disco che fa specie nell'universo musicale, quello di Justin Timberlake e Timbaland, che si chiama Future Sex and Love Sounds, che scuote a sua volta il mondo della musica per i possibili rinnovamenti che contiene. Nasce la Nintendo Wii, una macchinetta diversa da quelle che le hanno precedute. Chiudono tutti i negozi Tower Records, e per quelli che andavano in pellegrinaggio a comprare dischi in America, anche qui finisce un'epoca. Arriviamo però al 2007. E del 2007 si può parlare perché è l'anno in cui Damien Hirst ha esposto mezzo squalo al Metropolitan Art Museum, perché ha chiuso il CBGB, locale di culto assoluto del rock americano, con un concerto di Patti Smith, perché Steve Jobs, il dio di cui prima, dopo l'iPod, presenta l'iPhone, e tutti ci rendiamo conto che ne abbiamo assolutamente bisogno e ce lo dobbiamo assolutamente comprare. Nasce il libro elettronico chiamato Kindle, ma soprattutto in quel anno Britney Spears bacia Madonna durante gli MTV Music Awards, e anche Christina Aguilera. Britney Spears, tra l'altro, in quello stesso anno si rade tutta la testa, no? Si fa la testa pelata in una follia, in un delirio, no? che è un po' il culmine della sua crisi e l'inizio della sua rinascita, che la vede ancora oggi come una stella assai affermata. Arriviamo al 2008, siamo in piena campagna elettorale, siamo in piena America che si ripensa, si riconsidera, cerca personaggi nuovi. Uno l'ha già trovato, si chiama Barack Obama, ma dall'altra parte ne lanciano uno altrettanto nuovo, che si chiama Sarah Palin, che finisce immediatamente a Saturday Night Live. Good evening, my fellow Americans. I was so excited when I was told Senator Clinton and I would be addressing. Questa naturalmente non è la vera Sarah Palin, ma è uno dei video, degli eventi spettacolari più commentati, più visti del 2008. È Tina Fey, la comica americana, che fa la caricatura di Sarah Palin con un successo straordinario. Nello stesso anno, tra l'altro, muore uno dei cowboy di Brokeback, no? Heath Ledger muore in circostanze piuttosto misteriose, diventa un altro dei martiri della gioventù, a questo punto del XXI secolo. Ci portiamo nel 2001, c'è un film che si chiama The Millionaire, che addirittura nascendo attorno a una piccola storia etnica, diventa un successo americano. C'è Susan Boyle, una 48enne scozzese che diventa la donna che all'esordio ha mai venduto più dischi nella storia della discografia mondiale. Ancora ci interroghiamo attorno a questa storia. C'è un nuovo attrezzetto, un piccolo software che fa impazzire il mondo, che si chiama Twitter. C'è addirittura un attore che si chiama Ashton Kutcher, che con 1 milione di persone che seguono qualsiasi cosa, anche sciocchezza, lui dica, supera la capacità di influenza di CNN. Parla Ashton e 1 milione di persone immediatamente lo vengono a sapere. C'è Oprah Winfrey che chiude il suo show, annuncia la chiusura imminente del suo show. Ci sono i vestiti di Michelle Obama che diventano il principale trend della moda mondiale. C'è Amanda Knox che viene condannata e Hillary Clinton che si comincia a interessare al caso. E poi alla fine di tutta questa storia torniamo dove siamo cominciati. Puoi per favore cancellare il mio nome dal tuo telefonino, cara Jamie, si chiama così la cameriera. Mia moglie sta controllando il mio, c'è il rischio che ti chiami. Beh, insomma, non so se siamo finiti bene, sospetto di no, però siamo finiti qua, siamo finiti tutti concentrati, anzi metà concentrati su Natale e i regali che possiamo, non possiamo fare, vorremmo, ci piacerebbero e tutto quello che... e metà un po' concentrati a vedere che fine fa Tiger Woods, che ci hanno detto che era il modello perfetto di comportamento che dovevamo far vedere ai nostri figli, perché si diventa atleti, si diventa miliardari e si resta perfetti, e poi eccolo lì, finisce contro un albero, fa le corna alla moglie, lascia messaggini come quello che diventa poi un video su YouTube e tutto comincia a girare, no, alla velocità vorticosa che ci ha insegnato questo presente contemporaneo, che è una velocità vorticosa che ha proprio preso a correre durante il primo decennio del terzo millennio. Ormai, come si diceva un tempo, fermate il mondo, voglio scendere, no, ormai corre troppo veloce. E l'abbiamo fatto così, tanto per fare il punto, no? Tirare una riga. Ci sono le questioni importanti, le questioni epocali, le grandi storie, purtroppo tante tragedie, ne parliamo spesso e volentieri, purtroppo, più di quanto vorremmo qui a Buongiorno America, ma l'America poi è anche questo, è il mondo che è cresciuto, no? Che si è fatto le ossa attorno ai consumi americani, consumi culturali come quelli di cui abbiamo parlato, è anche questo. Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Valeria Bernardi a Milano. La mail è Buongiorno America e Radio24.it. La pagina Facebook è Redazione Jefferson 3. Questo programma va in replica dopo mezzanotte e invece ci sentiamo domani dopo 1:30 sempre da Radio 24. State bene.